come un dolce veleno sai prendermi. Non c'è luce nemmeno nell'estasi. Sembra proprio la fine del mondo. E siamo il sogno di tutti gli anarchici. Resteranno soltanto le ceneri. Il lontano ricordo di un fuoco. Sì e oh, sguardo crudo e cinico. Non sento più il brivido, brivido, brivido. Siamo carne ed ossa condannate nello spirito. Odio amore chimico, chimico. Te lo giuro, passeremo presto al lato oscuro. Fantasmi che si muovono nel buio. Lo sai che gli altri non son come noi. Condannate nello spirito. Odio amore chimico, chimico. Te lo giuro, passeremo presto al lato oscuro. Fantasmi che si muovono nel buio. Lo sai che gli altri non son come noi. Condannate nello spirito. Odio amore chimico, chimico, chimico, chimico, chimico, chimico, chimico, chimico, chimico. Te lo giuro, passeremo presto al lato oscuro. Fantasmi che si muovono nel buio. Lo sai che gli altri non son come noi. Dimmi ancora.